respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini. Oggi andremo in visita ad una casa speciale, una casa test, costruita secondo tutti i criteri per essere confortevole, sostenibile e virtuosa dal punto di vista energetico. L'edificio è stato costruito con l'orientamento migliore per controllare il microclima interno, l'illuminazione degli ambienti e per sfruttare i sistemi di generazione di energia. Questa casa è stata realizzata dalla Buderus SPA, la società che in Italia distribuisce i prodotti per il riscaldamento e la climatizzazione della storica azienda tedesca. Ma non serve solo a promuovere i prodotti Buderus, quanto a mettere a confronto diversi sistemi di generazione di energia, e qui ce ne sono ben 7, abbinandoli ai vari sistemi di distribuzione. Casa Buderus è ad Assago, provincia di Milano, la potete vedere su www.buderus.it ed ha il patrocinio di Legambiente e della provincia di Milano. Roberto Salis è amministratore delegato di Buderus SPA e ci ha accompagnato a visitare questo edificio. La casa esternamente si presenta come una casa modernissima, blu. Quando si entra, io le faccio fare proprio una visita, sì. Come se... Cominciamo dal bagno. Cominciamo dal bagno, anche se forse magari uno non inizierebbe la visita di una casa da questo punto, però qui effettivamente ci sono varie soluzioni che la prego di illustrarci. Direi intanto dal riscaldamento. In questo locale ci sono visibili almeno 2 soluzioni. Questo ambiente prevede, come del resto tutta la casa, 2 soluzioni di distribuzione del calore, che è uno degli obiettivi appunto che ci si prefigge con questa casa, il confronto tra diverse soluzioni. In questi ambienti vediamo la soluzione tradizionale del radiatore e la soluzione invece del riscaldamento a parete raggiante, in questo caso con dei tubi capillari, che consente appunto di confrontare le 2 soluzioni. La tecnologia che fa ricorso di energie rinnovabili ha bisogno di utilizzare acqua per il riscaldamento a temperatura bassa, per cui si sta cercando di sviluppare appunto queste soluzioni che consentono di riscaldare le pareti o i pavimenti utilizzando dell'acqua tra i 37 e i 40 gradi, perché l'acqua a 40 gradi può essere prodotta da pannelli solari o da altri sistemi di questo tipo. Invece per quanto riguarda i radiatori, questo mette un pochino più in difficoltà l'energia rinnovabile, perché il radiatore ha bisogno di acqua tra i 65 e i 75 gradi per funzionare in modo debito, per cui l'apporto dell'energia rinnovabile è soltanto parziale, nel senso che l'acqua magari nelle giornate particolarmente fredde viene prodotta a 35 gradi e poi il delta di temperatura richiesto deve essere apportato dalla caldaia o dal sistema tradizionale. Quindi scegliendo il pannello solare bisognerebbe pensare anche a cambiare il modo con cui si riscalda la casa. Questo va fatto nel momento in cui c'è la possibilità di lavorare da zero, cioè quando si lavora su una casa nuova ovviamente al giorno d'oggi sarebbe estremamente opportuno pensare di utilizzare questi sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura. Laddove invece la casa è già esistente bisogna lavorare diversamente, sempre però cercando di fare in modo che la temperatura dell'acqua in circolo sull'impianto di riscaldamento sia il più bassa possibile, perché questo, se ci sono apporti di energie rinnovabili, ovviamente consente di dare un contributo molto valido. Comunque, se si usa l'acqua a temperatura più bassa, le caldaie moderne, le caldaie a condensazione, che sono anche queste installate qui, riescono a condensare di più, quindi a estrarre dal combustibile anche il calore latente, si chiama, che consente appunto un risparmio energetico ulteriore. Diceva il pannello radiante, in questo caso del bagno, corre nelle pareti. Sì, e perché la parete? Perché nel bagno normalmente è difficile poter avere lo spazio per realizzare il massetto, si chiama, cioè il ripiano, diciamo, calpestabile su cui si opera, perché nei bagni normalmente ci sono gli scarichi dei sanitari che occupano il terreno. Non si può stendere agevolmente il tubo radiante per fare il pavimento radiante. Tra l'altro questo sistema non viene usato soltanto per riscaldare ma anche per raffrescare, per cui d'estate si usano i tubi nel pavimento radiante o nella parete radiante per far circolare acqua fredda ed estate invece per far circolare acqua calda, sempre con delta di temperatura molto bassi, cioè mentre il condizionatore tradizionale, lo split tradizionale, immette nell'ambiente la temperatura, un'aria a una temperatura attorno ai 3-4 gradi, che insomma non è tanto confortevole perché raffresca, però magari fa venire anche il torcicollo, invece con queste soluzioni si riesce a realizzare un delta T molto più basso, che è più confortevole per chi occupa la casa. Qui invece questa stufa, che stufa è? Questa è una caldaia, di fatto, una caldaia biomassa, è una caldaia che usa come combustibile i pellet. Che sono i pellet? I pellet sono dei recuperi di produzione dell'industria del legno, quindi in particolare i truccioli, diciamo, che vengono compattati e prodotti in piccole pastigliette di legno, appunto. Questa in particolare è una caldaia che rende circa il 20% del calore prodotto direttamente nell'ambiente, quindi funziona come una stufa. In più ha uno scambiatore di calore che va a produrre acqua calda che viene utilizzata per l'impianto di riscaldamento. Quindi questo è uno dei sistemi che vengono testati? Esattamente, questo qui è uno dei 7 sistemi di generazione che abbiamo installato in questa casa. La porterei nella stanza dei bottoni, là dietro. Sì. Ecco qua una caldaia di quelle che si diceva poco fa. Allora, qui c'è un po' di tutto, ci sono tutti, quasi tutti, cioè qui arrivano tutti i sistemi, insomma, sì, trovano... Sì, qui siamo usciti dalla casa e entrati nel laboratorio, cioè questa, mentre diciamo ciò che si vede lì può essere una casa abitata da una persona qualsiasi, qui invece entriamo nella parte di laboratorio dove abbiamo installato un numero assolutamente sovrabbondante di apparecchi e di macchine, apparecchi di controllo che generatori. Diciamo nessuno... che chi normalmente ha una casa, insomma, ne avrebbe uno di questi, avrebbe questi, scelto, certo, un sistema. Avrebbe scelto un sistema e avrebbe adottato poi l'impiantistica che consegue a quel sistema. Quindi cosa c'è, giusto per fare una presentazione? Qui, per fare anche giusto una breve carrellata, sono presenti gli inverter del sistema fotovoltaico. Gli inverter sono delle macchine che vengono utilizzate per trasformare l'energia elettrica in corrente continua prodotta dal pannello solare fotovoltaico e trasformarla in corrente alternata, che è quella che poi utilizziamo nella casa. Poi abbiamo una pompa di calore geotermico collegata a due sistemi di dissipazione. Questa casa, sempre nell'ottica di provare soluzioni diverse, presenta due soluzioni per l'acquisizione dell'energia dal terreno. Questa acquisizione si può fare o scavando un pozzo, in questo caso abbiamo scavato un pozzo di 100 metri di profondità, all'interno di questo pozzo si calano due tubi di mandata e due tubi di ritorno, oppure si può fare uno sbancamento del terreno e inserire dei pannelli di dissipazione che sono appunto installati anche in questa casa. Ovviamente queste soluzioni dipendono dalla realtà a disposizione, quindi se ho un giardino abbastanza ampio per poter fare uno sbancamento e l'aria sufficiente posso riuscire a utilizzare quella soluzione, altrimenti uso la soluzione in pozzo. Questa è una caldaia a condensazione, è una macchina particolarmente performante perché ha un rendimento del 111%. Un'altra caratteristica molto importante di questi sistemi sta nel fatto dei sistemi di controllo. Queste macchine devono, quando si vuole fare ricorso alle energie rinnovabili, devono essere unite ad altri apparati, in particolare una configurazione minima che fa ricorso all'energia rinnovabile prevede l'inserimento in una caldaia a condensazione un pannello solare con la sua stazione solare, quindi con un gruppo elettronico che controlla il funzionamento del pannello solare, e un bollitore per l'accumulo dell'acqua calda sanitaria. È fondamentale che ci sia il dialogo tra i vari apparati, perché bisogna fare in modo, perché le energie rinnovabili vengano realmente utilizzate, che si dia tempo ai pannelli solari di funzionare. Faccio un esempio molto semplice: se la temperatura del bollitore va sotto una certa soglia e quando arriva a quella soglia immediatamente parte la caldaia e scalda l'acqua, quando poi magari il pannello solare entra in produzione trova l'acqua già calda e non riesce a dare il suo apporto energetico. Allora è importante che ci sia un dialogo tra la caldaia e la stazione solare, in modo tale che se c'è un gradiente di temperatura, quindi se l'elettronica si accorge che il pannello solare sta entrando in produzione, si faccia stare in stand by la caldaia per un momento e si aspetti che il sole faccia il suo corso. Non le chiedo di salire sul tetto perché piove, anche non è piacevole. Che cosa c'è sul tetto, che soluzioni mettete a confronto, ecco? Allora, la casa è stata realizzata tenendo conto che si doveva realizzare una casa che faceva ricorso a di energie rinnovabili, quindi la falda del tetto è perfettamente esposta a sud e il tetto ha una falda inclinata a 45 gradi, che è l'inclinazione ottimale per la massima efficienza dei pannelli. Dovendo costruire, ovviamente uno sceglie la soluzione migliore per testare. Certo, si cerca di partire da questa, anche se va detto che molto spesso si fanno veramente delle soluzioni che non sono particolarmente piacevoli e che di fatto non hanno una grande esigenza da un punto di vista tecnico, cioè se la falda del tetto non è a 45 gradi ma è a 15 gradi, per esempio, il decadimento delle prestazioni dei pannelli è attorno al 5-10%. Probabilmente è molto meglio accettare questo decadimento e però integrare esteticamente il pannello nel tetto a filo di falda piuttosto che vedere certi obbrobri che si vedono. Quindi qui date queste condizioni comunque ottimali di partenza. Sì. E sulla falda abbiamo inserito i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione col riscaldamento, e poi abbiamo inserito due pannelli, due impianti di fotovoltaico, uno col silicio monocristallino e l'altro col silicio policristallino, sempre nell'ottica di confrontare le varie soluzioni disponibili nello stesso ambiente. Adesso appunto è tutto pronto, si comincia con i confronti, no? Sì. Per curiosità, poi dopo i dati ottenuti li pubblicherete, ovviamente li avrete in possesso voi anche per i vostri futuri lavori, ma poi verranno divulgati, insomma? Questi dati saranno utilizzati principalmente ovviamente dalla nostra azienda per migliorare il servizio reso al mercato e poi in accordo con le istituzioni universitarie con cui collaboriamo definiremo dei lavori di tesi o dei lavori di ricerca che verranno pubblicati di conseguenza. Ed è tutto anche per oggi. Oggi grazie per averci seguito, ora la linea passa al riposo del guerriero con Stefano Gallarini, l'appuntamento con Respiro è per la prossima settimana alla stessa ora.